Mezzogiorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, Ricciardi avverte, bisogna prepararsi a un lungo periodo di contrasto del contagio, forse fino a maggio. Oltre 2000 casi in Germania, positiva una ministra in Spagna. Trump blocca i voli dall'Europa, ma l'Unione Europea boccia la misura unilaterale. Ci vuole cooperazione, dice Bruxelles. Borse europee in calo. E dopo la stretta sui negozi, edicole, rider e consegne a domicilio restano tra i pochi contatti aperti per chi è chiuso in casa. Effetto giorno, la storia di due ragazze che portano i giornali a casa nel Lodigiano. Lavoro, dati Istat positivi nel quarto trimestre del 2019, più 200.000 occupati. Calcio, Juve-Inter in quarantena, si ferma anche il Torino dopo il primo caso positivo in Serie A. Il bianconero Rugani, fermi anche l'NBA americano di basket e la Formula 1. E 18 minuti. Di nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi. Tra queste, in primissimo piano, la dichiarazione del consulente del governo per il coronavirus Walter Ricciardi e l'OMS che avverte, bisogna prepararsi, avete sentito, a un lungo periodo di contrasto al contagio. Fa un confronto con l'epidemia di SARS che si concluse a maggio-giugno e quindi fa una previsione e una tempistica piuttosto lunga, insomma. Ieri sera il Presidente del Consiglio Conte, presentando la nuova stretta sui negozi, ha detto dobbiamo aspettare almeno 2 settimane però per capire l'effetto di queste misure. Anche di questo vogliamo parlare con chi si sta esercitando proprio coi numeri, i modelli statistici epidemiologici in queste ore. Tra questi il professor Bonanni, professor ordinario di igiene generale all'Università di Firenze. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, intanto professor Bonanni, le voglio chiedere però più in generale che cosa ne pensa di queste nuove misure, di questa stretta annunciata ieri dal Presidente del Consiglio Conte per la chiusura di molti negozi, forse non tutti i negozi. Qualcuno continua a chiedere una stretta maggiore e molti negozi, molte attività commerciali si erano autoregolamentate e avevano già chiuso in precedenza. In ogni caso il nostro Paese fa un ulteriore passo avanti per aumentare la rarefazione sociale e quindi diminuire il contagio, evitare che gli ospedali esplodano. Che giudizio dà intanto di queste misure? Ma io credo che siano misure sostanzialmente giuste. Ovviamente bisogna mantenere alcuni servizi fondamentali, come appunto la possibilità di acquistare alimentari, di avere notizie, di avere farmaci, ovviamente insomma, tutte cose che sono assolutamente indispensabili per continuare a mandare avanti il paese. Ora, restrizioni più pesanti di quelle che ci sono attualmente mi sembrano oggettivamente ancora difficili da pensare. Credo che tutto sia anche sulle spalle della responsabilità individuale. Dei nostri cittadini, perché credo che ormai tutti abbiano capito che siamo di fronte a un'emergenza molto importante, molto rilevante, e quindi credo che i comportamenti delle persone siano quelli su cui cerchiamo di fare leva e fare in modo che tutti capiscano che veramente bisogna ridurre al minimo le uscite e cercare veramente di non contagiarsi, per non essere, non tanto, a volte non tanto per sé, ma anche per le persone più fragili. Insomma, questo è il messaggio che mi pare sia passato e mi pare che la stragrande maggioranza della popolazione italiana abbia recepito. Senta, professor Bonanni, ancora un'aggiunta su questo. Restano fuori da queste restrizioni una serie di attività, le aziende, le fabbriche, i servizi essenziali, come diceva anche lei, ed è la valutazione condivisa a livello generale, anche se non da tutti, non si può interrompere proprio tutto, ma anche edicole, tabaccai, per esempio i rider che portano il cibo a domicilio. Queste persone in queste ore sono più esposte delle altre a un possibile contagio? Ma io credo che se vengono tenute le distanze, io credo che se una persona porta a casa a domicilio degli alimenti o degli altri presidi di grande utilità per la persona che le riceve, si possa anche semplicemente uscire da un uscire dagli ascensori, meglio di no, insomma, se si può evitare di usare l'ascensore è ancora meglio, perché le scale evitiamo sono di usare l'ascensore, perfetto. È sicuramente più sicure, insomma, l'ascensore è un ambiente molto ristretto. Ecco, diciamo che se la persona suona e lascia il presidio vicino alla porta senza avere contatto diretto, questo sarebbe sicuramente un modo per tutelare anche le persone che consegnano. Certamente ci sono anche delle persone anziane che magari hanno bisogno di avere la spesa a domicilio, questo sì, non dobbiamo dimenticarlo, quindi dobbiamo fare le cose in maniera da minimizzare i contatti con un po' anche di buon senso, ma non possiamo certo bloccare tutto, perché altrimenti rischiamo di creare dei danni anche per impossibilità delle persone di approvvigionarsi con beni essenziali. Chiarissimo, professor Bonanni. Senta, veniamo all'aspetto delle previsioni, insomma, dei modelli matematici. Lei stesso in questi giorni ha espresso delle sue valutazioni, tutti gli epidemiologi e tutti i suoi colleghi, lei stesso, si stanno esercitando in questa cosa. Mi rendo conto che è veramente difficile, però cosa ci dicono i modelli, la maggior parte dei modelli, una media dei modelli, su quali sono le attese per, non so, il picco, raggiungere il picco, contenere il contagio, poter diminuire con queste misure molto restrittive? Ma guardi, ovviamente per indovinarla bisognerebbe avere la sfera di cristallo, perché insomma le cose poco conosciute di questa infezione sono ancora molte, stiamo imparando giorno per giorno a conoscerla meglio. Ora, quello che noi sappiamo è che questa, il tasso di contagiosità, cioè quante persone contagia mediamente una persona infetta, abbiamo detto che varia intorno a 2,5-3, anche se poi dovremo verificarlo a fine dell'epidemia. È difficile valutare quando sarà il picco, anche perché progressivamente abbiamo messo in atto una serie di misure di distanziamento sociale. Cioè, cosa voglio dire? Che questo valore R0, che ormai è diventato famoso, una volta era soltanto un concetto che conoscevamo noi epidemiologi, questo tasso di contagiosità, quante persone mediamente contagia un infetto, sia intrinseco all'agente infettivo, cioè dipende da quanto intrinsecamente, per sue caratteristiche, il coronavirus è in grado di diffondersi, ed è un virus abbastanza diffusivo, ma dipende anche dalle relazioni sociali, cioè dalla densità dei contatti tra le persone. Ora, partendo da una situazione in cui questo valore 2,5-3, senza particolari misure di contenimento, ha una progressiva implementazione di misure di contenimento progressivamente più restrittive, è ancora più difficile capire quanto noi stiamo impattando sulla diffusione dell'infezione, quindi quanto stiamo, sicuramente, questo lo darei per scontato, stiamo riducendo i contatti, quindi riducendo la sua diffusione, quindi potremo pensare di avere picchi di malattie, di numero di malattie più bassi e più diluiti nel tempo. Quindi questo ci potrebbe consentire, da un lato, di evitare di avere tanti casi contemporaneamente, che è quello che sta mettendo a dura prova le rianimazioni di molte regioni più colpite, e quindi questo è già un risultato positivo. Certamente l'effetto collaterale potrebbe essere che noi la coda dell'epidemia la vedremo più slargata, cioè potremmo in qualche modo ridurre ma allungare nel tempo, cioè la campana, quello che uno può immaginare proprio un grafico, la campana anziché essere una campana stretta appuntita, e alta si allarga, sì, si abbassa, si allarga, e si allarga, quindi, questo probabilmente è prevedibile, perché quando appunto la diffusività si riduce grazie alle misure di contenimento dei contatti sociali, ovviamente abbiamo una curva più bassa ma più larga. Pasqua, maggio, inizio maggio potrebbe essere un periodo nel quale... Guardi, allora, quello che noi vediamo, potrebbe aiutare quello che stiamo vedendo in Cina e in Corea. In Corea e in Cina stanno riducendosi i casi, e abbiamo visto tra l'altro che i casi, una volta che hanno cominciato a ridursi, si sono ridotti abbastanza velocemente. La previsione, ottimistica potrebbe essere che potremo raggiungere probabilmente verso primi 15 giorni d'aprile il picco, e poi potremmo, se la situazione sarà analoga a quella della Corea e della Cina, potremmo vedere una rapida diminuzione dei nuovi casi di infezione. Grazie. Però questo va preso con tutti i benefici di inventario. Cioè La ringrazio anche per essersi esercitato in questo che può sembrare un po' come il giocare la schedina, però vi assicuro che non è così, perché le affermazioni del professor Bonanni, così come quelle degli altri esperti, sono basate su una serie di evidenze, di ragionamenti, di statistiche, di casi pregressi. Quindi questa indicazione che ha dato è da prendere in considerazione. Entro i primi 10 giorni di aprile potremo raggiungere il picco. Verosimilmente non si discosta di molto da quello che è stato detto ancora ieri sera dal Presidente del Consiglio, che ha parlato di 2 o 3 settimane, quindi insomma diciamo si va a finire là, fine marzo, inizio di aprile. Torniamo invece su un altro argomento in questa parte di Effetto Giorno, ed è la rivolta delle carceri, perché con Daniele Biacchessi vogliamo focalizzare sulle accuse che sono state rivolte in queste ore alla direzione dell'amministrazione penitenziaria. Nelle carceri termina la rivolta, si fanno i bilanci, ma i problemi strutturali rimangono identici a prima e ancora irrisolti. 6.000 detenuti coinvolti nelle proteste, 12 morti, 40 feriti tra gli agenti, evasi ancora in libertà, primi contagi di coronavirus negli istituti penitenziari, gravi danni strutturali soprattutto a Modena. Ieri in Parlamento il ministro Bonafede ha detto che lo Stato non indietreggia di un centimetro davanti all'illegalità, ma non ha indicato soluzioni in tema di sovraffollamento e ha difeso l'operato del capo del DAP Francesco Basentini. Il suo passo indietro viene auspicato, per motivi diversi, da una parte della maggioranza e da tutta l'opposizione, e risultano fondate le critiche dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso quando parla di una gestione molto carente del responsabile delle carceri, accusandolo di ritardi e indecisioni. Solo 2 giorni fa, ad esempio, sarebbero inviate le mascherine contro il coronavirus nei penitenziari. La rivolta poteva dunque essere evitata, perché era prevedibile che la nuova emergenza sanitaria si sarebbe calata in condizioni già insostenibili per un paese civile, con il doppio delle presenze dei detenuti rispetto alla reale capienza delle carceri. Così dunque Daniele Biacchessi sulla questione della rivolta nelle carceri. Alle 13:28 apriamo però di nuovo un piccolo capitolo sulla questione più importante, quella che tutti noi stiamo vivendo, l'emergenza coronavirus, come si vive nelle nostre città. Per esempio vi vogliamo raccontare il caso di un servizio che non si ferma, è quello di alcuni edicolanti, per esempio in questo caso l'edicolante di Corso Mazzini a Lodi. Elena Bianchi è con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta, grazie per essere con noi. Elena, lei e la sorella da un po' di tempo hanno rilevato una edicola da alcuni anni, decidendo tra l'altro di remare contro la crisi di un settore, che è quello della vendita dei giornali cartacei, in queste ore di andare anche contro insomma tutte le restrizioni del coronavirus. Come va in questi giorni la consegna dei giornali? Che tipo di realtà sta incontrando, Elena? Allora, parlando proprio senza mezzi termini, la nostra consegna verso i nostri clienti sta andando abbastanza bene. Naturalmente tutte le attività a cui consegnavamo, quali parrucchieri, estetiste, così, dovendo chiudere, allora certamente non si consegna più. Restano, esatto, diciamo, i singoli, le persone, i privati. Esatto, però in un certo senso stanno aumentando le richieste di consegna a domicilio. Diventa anche un momento forse per qualcuno per avere un contatto sociale. Io penso insomma anche agli anziani soli a casa, persone magari anche se banalmente chi abita da solo a casa e non può uscire, non può vedere nessuno. Certo, perché di per sé molti miei clienti trovano il giornale come una compagnia, un senso di conforto, no? E anche vedere il fatto che gli sia ricopiato il suo quotidiano piuttosto che la rivista preferita, per loro in questo periodo abbastanza insusi, che sono al lavoro, quindi non è che sono venuti a prenderti perché ti vedono in giro senza l'autocertificazione. Era un'autopompa dei pompieri, assolutamente no, siamo ancora sul luogo di lavoro, essendo su strada, quindi scusatemi. E ti fanno passare? Hai trovato dei controlli da parte della polizia e carabinieri? Allora, i controlli sul territorio di Lodi all'interno del comune sono molti. Mm-hmm. però anche loro sono molto comprensivi e riescono a capire, diciamo, che io lo sto facendo per lavoro, che non sto andando in giro per mio diletto, per fare attività fisica, no? E allora sinceramente ci si saluta al mattino, buongiorno e via così, perché più o meno siamo nella stessa barca, perché come loro sono in giro per strada, anche se in pattuglia, e io sono in giro per consegnare, certo. Però più o meno siamo nella stessa barca. Ognuno sta svolgendo anche la sua attività. Loro fanno il controllo sul territorio, tu fai la consegna a casa dei giornali. Elena Bianchi, grazie per essere stata con noi dell'edicola di Corso Mazzini Lodi, giusto per dare un'informazione di servizio nell'Lodigiano, che è una zona tra l'altro molto colpita, ma di servizi del genere ce ne sono naturalmente anche altrove. Abbiamo scelto lei per raccontare questo momento particolare che tutti noi stiamo vivendo. È anche curioso come il giornale cartaceo, che sembra venire da un'altra era, da un altro mondo, una cosa antica che tutti dicono non servirà più, non ci sarà più, invece vedete, in queste ore torna ad avere una sua utilità anche sociale. 13 e 32 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con le altre notizie. 349-238-6666. Imprenditore, riparti ora. Le risorse le ottieni da Credimi. Da 20.000 euro a 2 milioni senza garanzie. Rimborsabili in 5 anni dal 2021. Anche per società di persone o con un solo bilancio. Vai su credimi.com. Messaggio promozionale. Fogli informativi su credimi.com. Oggi al lavoro con Mara c'è Sergio, elettricista. Sergio, accendi le luci che ci sono i nuovi veicoli commerciali Opel. Ma ho spento per risparmiare. Ma ti illumino io. Scegli il tuo veicolo commerciale con Opel Leasing Top da 139 euro al mese. TAN 2,99, TAG Max 4,72. Ti aspettiamo anche sabato. E allora? Quello per cui lavoriamo mostra chi siamo. Per questo motivo, ADP progetta un modo migliore di lavorare affinché le persone possano realizzare ciò per cui lavorano. Dalle piccole aziende alle grandi multinazionali, ADP offre a tutti le migliori soluzioni per la gestione di payroll, presenze, risorse umane e talenti, basate sui dati e progettate per le persone. Perché quando le persone crescono, anche l'azienda cresce insieme a loro. Per maggiori informazioni, visita il sito it-adp.com. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Ehi, ma sei un alieno! E.T. Telefono Cloud. Cosa dici? E.T. Telefono Cloud. Ma amico, se hai un'esigenza cloud vai su iridios.it. Lo sanno anche su Marte, che è proprio in Italia la soluzione cloud per le aziende più potente e sicura. Sto parlando di vCloud, la piattaforma Iridios basata su VMware e certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E.T. Telefona Iridios. Bravo, oppure vai su iridios.it. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Borse in diretta. Una seduta da dimenticare per l'Europa e si preannuncia un'altra seduta nera anche per Wall Street dopo la decisione di Donald Trump di bloccare per 30 giorni i viaggi negli Stati Uniti dall'Europa tranne che dal Regno Unito. La notizia che dell'iniziativa presa in via unilaterale che ha reso molto perplessa anche la Commissione europea, la notizia appunto si è abbattuta sui mercati fra tutte le altre che in questo periodo stanno imperversando e condizionando in maniera pesante la borsa. Dicevamo di Wall Street che apre per l'ora legale alle 14.30, oggi sono scattati anche i blocchi automatici degli scambi sui futures, sugli indici americani, quando era stata raggiunta la soglia del meno 5%. E comunque l'apertura dovrebbe essere di questo tenore, mentre anche l'Europa procede con ribassi in questa misura. Adesso abbiamo Milano con meno 5,37%, Francoforte meno 6,65%, Londra meno 6, Parigi meno 6,63%, cali molto forti su tutte le altre piazze. Anche questa mattina in Asia le indicazioni arrivate sono state le medesime. Abbiamo avuto anche delle aste di titoli di Stato da parte del Ministero dell'Economia, che ha collocato 3 miliardi e mezzo di BTP a 3 anni. Sono in risalita tutti I rendimenti per questa scadenza siamo allo 0,6%, collocati 795 milioni di BTP a 7 anni, rendimenti in risalita allo 0,85, 1 miliardo e 2 di BTP a 10 anni, rendimenti in risalita all'1,35 per il BTP a 20 anni e quasi raddoppiato il rendimento chiesto dal mercato al 3,10%. A Piazza Affari non si salva nessun titolo, tutti in rosso piuttosto marcato, con una perdita in questo momento di Atlantia del 10%, meno 7 punti per Tenaris, meno 6 punti e mezzo per Juventus, meno 8 punti percentuali per Campari, Amplifon meno 8, CNH Industrial meno 6, ma non abbiamo in assoluto nessun titolo positivo, anzi adesso ce n'è uno che fa capolino, è Fineco e guadagna lo 0,20%, tutto questo in attesa delle decisioni che prenderà oggi la Banca Centrale Europea. Per ora è tutto, ci riaggiorniamo alle 14.30. Queste non sono montagne russe, sono le grida di chi ha visto che Tiguan 1500 TSI è tua da 199 euro al mese. Davvero? Credici, perché fino al 31 marzo Tiguan 1500 TSI con disattivazione intelligente dei cilindri e Adaptive Cruise Control è tua da 199 euro al mese e anticipo 5.000 euro. Dan 3,99, TAEG 4,95. Info su volkswagen.it. L'energia di Repower si fa sentire. Repower è efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro, elettricità e gas inclusi. Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua azienda. Repower, l'energia che ti serve. Messaggio riservato agli iscritti Enasarco. Alle elezioni Enasarco vota la lista Fare Presto. Per un presidente agente di commercio. Per una pensione veramente garantita. Per far pagare i contributi ai giganti del web e dell'e-commerce. Alle elezioni Enasarco vota la lista Fare Presto. Altrimenti non ci sarà più nulla da fare. www.farepresto.it. Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo. Comunque sia, è unico. Unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai Assicurazioni, i numeri uno nell'innovazione, come l'app con cui chiami carrozzisti e soccorsi. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus. Ricciardi avverte: bisogna prepararsi a un lungo periodo di contrasto del contagio. Oltre 2.000 casi in Germania, 3.000 in Spagna. Trump blocca i voli dall'Europa. Bruxelles replica: è una misura unilaterale, ci vuole cooperazione. Intanto le borse europee vanno a picco. Il governatore della Lombardia Fontana dice: nel decreto ci sono cose da correggere e dopo la stretta di ieri sui negozi restano aperte le aziende. Scioperi oggi in Piemonte, e confusione tra i lavoratori che temono il contagio, dice la FIOM. E proprio a proposito del lavoro ci sono i dati positivi dell'Istat pre-coronavirus. Nel quarto trimestre del 2019 ci sono stati più 200.000 occupati. Sport calcio, Juve Inter in quarantena, si ferma anche il Torino dopo il primo caso positivo in Serie A, il bianconero Rugani, fermi anche l'NBA americano di basket e la Formula 1. Allora, un velocissimo aggiornamento riguarda le dichiarazioni del governatore della Lombardia Fontana, che, se i mezzi mi assistono, ma non mi assistono perché, ecco sì, adesso mi assistono, l'agenzia dice: il nuovo decreto dovrà essere riguardato e riesaminato, ci sono discrasie, cose che vanno corrette, ma il dialogo con il governo prosegue per cercare di migliorare ulteriormente questo documento, e ci dovrebbe essere oggi un nuovo vertice tra la protezione civile, il governo e appunto le regioni. Ma è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Tra pochi minuti sapremo quali saranno le scelte della Banca Centrale Europea e capiremo anche quale sarà il bazooka che Christine Lagarde avrà deciso di imbracciare per far fronte alla crisi del coronavirus, che per sua stessa ammissione rischia di essere peggio di quella del 2008. Una cosa è certa, l'Europa ha cambiato atteggiamento e segno. Angela Merkel ieri lo ha detto chiaramente, è tempo di flessibilità nei bilanci. L'Europa dei sacerdoti, dell'austerità e dei decimali è stata spazzata via dal virus. Ed è un bene, naturalmente. Il coronavirus alla fine avrà portato gli europei verso una maggiore consapevolezza del loro stesso valore di cittadini solidali e continentali. E forse per la prima volta le politiche economiche dell'Unione andranno di pari passo con quelle della Banca Centrale, cosa che Mario Draghi ha auspicato per tutti gli anni del suo mandato senza riuscire a vedere mai quel risultato. Resta il fatto che, fronteggiata l'emergenza e finita la fase espansiva, quei debiti dovranno essere restituiti. Se saranno debiti coperti da una garanzia europea, naturalmente tutto sarà molto più facile. Alle 13.41 è con noi Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buongiorno. No, non ce l'abbiamo, mi dicono. C'è un problema col collegamento. Tra poco lo avremo, spero, se riusciamo a ristabilire il collegamento. Per parlare proprio di questo, volevamo chiedergli quali sono i primi dati sull'andamento di questo nuovo modo di lavorare, un nuovo modo anche di affrontare questa emergenza da coronavirus. Stiamo vivendo sicuramente un momento che entrerà nei libri di storia e sicuramente passerà alla storia anche come quel periodo nel quale il lavoro da casa diventò quasi la regola. L'abbiamo recuperato? Sì, professor Corso, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, benvenuto. Allora, io le voglio chiedere se avete già dei dati, delle prime indicazioni su quanto si stia facendo ricorso in queste ore a lavoro da casa, smart working. So che poi anche su queste definizioni ci sono delle precisazioni da fare, ma insomma gente che invece di andare in ufficio sta a casa. Dunque, abbiamo le prime indicazioni, sono ancora qualitative, si parla di un massivo ricorso allo smart working da parte soprattutto dei 2/3 delle grandi imprese che già avevano introdotto al loro interno delle sperimentazioni. Ci sono anche tentativi da parte delle medie imprese, delle imprese diciamo grandi che ancora non avevano introdotto smart working, di ricorrere diciamo al lavoro da remoto. Diciamo che è un grande stress test di quanto si possa andare all'estremo con la flessibilità nei modelli organizzativi. Io credo che questo sia qualcosa da cui non si tornerà indietro, quindi il momento dal punto di vista anche dell'apprendimento è realmente eccezionale. Questo potrebbe essere un aspetto positivo in tutta questa vicenda che stiamo vivendo, quantomeno un aspetto di cambiamento. Poi anche sullo smart working ci saranno anche delle voci critiche, delle perplessità, delle cose da migliorare, da definire. Quali sono le categorie di lavoratori, di lavori per i quali lo smart working sta decollando? Su tutti i servizi e quindi su tutti i lavoratori che evidentemente fanno uso di strumenti digitalizzati e soprattutto per tutti quei lavoratori per cui è possibile definire degli obiettivi e dare poi autonomia nella conduzione delle attività, che poi è il vero tema definitorio dello smart working, quindi non tanto il fatto che si lavori da casa o si lavori da remoto, quanto il fatto che si abbia un'autonomia di scelta. Stiamo certo vivendo un momento estremo, nel senso che non c'è scelta, dobbiamo per forza lavorare da casa o da remoto, ma quello che si sta vedendo è che per moltissimi lavori, quasi per tutti, c'è una componente di attività che in caso di necessità può essere realizzato da altri, in altre condizioni, in altri orari, in altri luoghi. Senta, professor Corso, un'ultima cosa prima di salutarci, insomma, è questa. Effettivamente lo smart working è una specie, sta in mezzo a una specie di paradosso, perché come diceva lei c'è questa autonomia, questa possibilità, un privilegio secondo alcuni, per alcune categorie, ma di lavoratori magari liberi professionisti, lavoratori intellettuali. Per altri può essere visto anche invece come una nuova forma di schiavitù, si sta a casa, si è autoresponsabili, quindi il limite diciamo aziendale entra dentro di noi, ci sono i costi da sostenere per il proprio piccolo ufficio di casa. Lei come, da quale delle due parti propende? Beh, io penso che sia una grandissima opportunità, ma non è che lo pensi in astratto, ma lo misuro ogni giorno attraverso il nostro osservatorio. Cioè i lavoratori a cui viene offerta questa possibilità scoprono delle immensi gradi di libertà e un equilibrio che non è soltanto un equilibrio, diciamo, personale, di conciliazione con la propria vita privata, ma è soprattutto riscoprire un orgoglio professionale di essere dei professionisti che possono trovare anche modi diversi di fare le cose. Non è soltanto dove si lavora, è anche proprio l'autonomia che grazie allo smart working il lavoratore ha, e quindi la possibilità di essere valutato sui risultati per il proprio merito. Grazie professor Corso del Politecnico di Milano, in attesa di nuovi dati sul smart working. 13:46, un po' in ritardo sulla normale andamento oggi di effetto giorno. Carlo Genta. Ciao Alessio. Allora, pagina sportiva che è in continua evoluzione, sì. Non, insomma, ci sono... Beh, si va verso una direzione molto precisa, sì. Cioè la chiusura di tutto lo sport. Cosa che l'UEFA sta decidendo per le coppe europee, dopo che è stata superata ampiamente dai fatti con la positività di Rugani, giocatore della Juventus, con il Real Madrid, sia calcio che basket, che è in quarantena per la positività di un giocatore del club cestistico del Real. Insomma, l'Inter è in quarantena, dunque il ritardo dell'UEFA superato dagli eventi. C'è un evento sportivo che si dovrebbe disputare in Australia, il via del mondiale di Formula 1, però è notizia di poco fa che la McLaren si ritira da questa competizione, da questa corsa, per la positività di uno dei membri del team. Dunque la McLaren non parteciperà. Mi sembra evidente, è stata fermata la NBA nella notte, dopo la positività di Gobert. Mi sembra chiaro che l'intero mondo sportivo vada verso uno stop per almeno un paio di settimane, poi si vedrà. Solo PlayStation per ora da casa. Solo PlayStation dal divano. Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente con queste altre notizie, altri commenti in tutti i convocati dopo il giro delle 14. Piccolo break, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.